Buon pomeriggio, bentornati a questa nuova puntata di Might FM, sempre in una giornata ed orario atipici per colpa delle feste, dei ponti, eccetera, eccetera, ma siamo qui in tempo utile, speriamo, per dare tutte le informazioni, quelle che rimangono, relativamente al NOS Primavera Sound Festival, ovvero la versione portoghese dell'evento barcellonese che si svolge tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, mentre quello di Porto si svolgerà nel weekend dell'8, 9 e 10 giugno. Noi lo frequentiamo dalla seconda edizione del 2013, quest'anno ci ritorniamo. Due settimane fa, anzi 16 giorni fa per l'esattezza, abbiamo fatto la prima puntata che raccontava più o meno la prima giornata, che si sa è più rilassante. Ci sono solo 8 live nei due palchi principali, che ovviamente si alternano, quindi di tutto relax e riposo nella cornice bucolica del Park da Cidade, ai confini della città, insomma sull'oceano di Matosinhos. Abbiamo ascoltato e raccontato la stragrande maggioranza degli artisti che si esibiranno venerdì 9 giugno. In mezzo ci abbiamo anche messo, come dovuta menzione, Io sono un cane, perché Jacopo Incani suonerà nel programma ufficiale del Primavera di Barcellona il 2 giugno, e anche uno dei tre artisti italiani selezionati per il Primavera Pro. L'altra volta è stato Persian Pelican, più tardi ascolteremo gli altri due, non anticipiamo, ma appunto abbiamo detto che nella giornata di venerdì 9 giugno avevamo lasciato fuori tre nomi, e il primo dei quali è quello degli Swans. E stiamo ascoltando un pezzo che hanno ripubblicato il 3 aprile, una canzone che in realtà è del 95, tratto da The Great Annihilator. Si tratta di Mind/Body/Light/Sound. È un pezzo molto bello. L'ultima volta che avevamo sentito gli Swans qui a Might FM era stata in occasione della puntata sul Club to Club del novembre scorso. Avevamo sentito un pezzo del loro ultimo album ufficiale del 2016, The Glowing Man. Invece adesso c'è questo throwback del 1995, molto molto bello per questo gruppo storico fondato da Michael Gira a New York nel 1982, anche leader della Young God Records. È una cosa che è stata molto divertente da leggere è il testo che lui ha firmato di suo pugno, che ha scritto sotto appunto il video di questo pezzo ripubblicato il 3 aprile sul loro canale YouTube, dove dice: mi fa piacere che tu abbia scoperto la nostra musica attraverso questo medium, considero questa esperienza come l'equivalente di ascoltare in anticipo un disco in un negozio di dischi nei vecchi tempi, ma comunque se tu vuoi esperire la musica nella sua forma più completa ti incoraggio fortemente ad acquistarlo in forma fisica, qualcosa che tu puoi portare a casa. Non solo potrai esperire la versione più ricca della musica a livello sonico, ma potrai anche permetterti di avere tra le mani, insomma, di godere dell'artwork, insomma, del lavoro pratico dell'artwork, ovvero del packaging del disco, che è stato concepito in tandem con la musica e che serve come ulteriore portale per esperire ancora il contenuto emotivo, spirituale e concettuale del lavoro che noi abbiamo prodotto con amore per portare a te. Vi voglio bene, ti voglio bene, Michael Gira. Per chi assiste ai concerti di Swans, portarsi dei tappi, quanto proprio era loro cifra stilistica suonare a dei livelli di volume veramente, veramente intollerabili dall'orecchio umano. E siamo ripartiti appunto dagli Swans per raccontare la giornata di venerdì 9 giugno. Come abbiamo detto, sono rimasti tre nomi fuori da quell'elenco. Il secondo è un nome a noi caro, che abbiamo amato fin dalla loro debutto alla fine degli anni 80. Si tratta degli scozzesi Teenage Fan Club. Club, Norman Blake e Company. Io ho tutti gli LP dal 90 al 95. Negli ultimi 15 anni hanno fatto dischi un po' più raramente. L'ultimo, Here, del 2016, e abbiamo scelto due pezzi, quelli molto classici, molto tipici. Il primo che abbiamo sentito era Hold On, seguito da questa, dolcissimo, The Darkest Part of the Night. Giorni su Facebook gira il giochino 10 concerti, uno dei quali non ho visto, indovinate quale. Io in teoria loro li ho visti a Reading una ventina di anni fa, 25ina anche, ma non ne sono completamente sicura. I ricordi cominciano a sbiadire, per cui sarà molto bello godere di questo grande ritorno venerdì 9 giugno, una delle teste di serie della serata al NOS Primavera Sound, che ovviamente suonerà anche a Barcellona. Un altro nome molto molto quotato negli ultimi mesi è quello dei Whitney, che abbiamo già sentito qui in trasmissione, ovvero già due volte, una volta diciamo senza commento, perché era la compilation che io avevo fatto per il Mesh Fest, il Vodafone Mesh Fest, che ho visto, cui ho assistito a novembre scorso a Lisbona. Poi però abbiamo ascoltato Era Golden Days, poi abbiamo ascoltato un altro pezzo del loro fortunato album Light Upon the Lake del 2016, ed era No Woman, e stavolta sentiamo il pezzo conclusivo del disco, Follow. Max Kakasek e Julian Ehrlich, già membri dei Smith Westerns, alla chiusura di quell'esperienza fondano appunto i Whitney, quindi fondamentalmente sono loro due, però dal vivo hanno una full band. Io l'ho visti in forma acustica appunto lo scorso novembre, immagino che invece saranno insomma in tanti sul palco, sia ai Primavera Sound Festivals, che come fanno spesso tante band in passaggio per l'Europa, ne approfittano tra i due weekend per fare un po' di altri concerti in giro, e sarà proprio il giorno prima che saranno qui a casa nostra, saranno al Parco del Cavaticcio per il programma di Bioparco Biografilm Festival, sempre organizzato dai ragazzi del Locomotive. Questo suono un po' retro, un po' folk, country, più Chicago Soul e anche molto Simon & Garfunkel, dico io. E la seconda volta l'abbiamo ascoltato in occasione della puntata sulle migliori canzoni del 2016, appunto era No Woman. L'altra volta devo anche aver detto che non mi hanno fatto molta simpatia, però insomma li vedremo con piacere. Cioè, mi hanno fatto simpatia perché lui parlava un casino, diceva però io questa qui non la so fare, non so come viene, e faceva insomma un po' il bohemian, sempre attaccato a bere a collo alla bottiglia di vino rosso portoghese. Ma andiamo avanti perché siamo passati all'ultima giornata del festival, idealmente di sabato 10. Come diciamo sempre, ci sono delle differenze logiche, a parte che c'è un terzo del programma a Porto, il che ce lo fa preferire, perché per quanto siano appetibili, ti venga la colina in bocca quando vedi tutto il cartellone di Barcellona, poi sai che ti viene un'ansia pazzesca perché non riuscirai mai a riuscire a vedere tutto quello che vedi, quindi meglio un festival con meno nomi e quindi meno sovrapposizioni rischiose, meno sacrifici. E le differenze di solito riguardano il fatto che siccome la scena portoghese, non lo sapete, ma è ricchissima, sono tantissime band, tantissima gente che fa musica di qualità, un piccolo spazio di solito a inizio giornata viene dato alle band portoghesi locali, in questo caso localissime perché sono proprio di Porto e sono gli Evils. Sul loro Bandcamp si vedono i tag Kurt Weill, Rock, Beatles, Fuzz, Tame Impala, Ty Segall, Porto. Descrizione: cavalleria psicotropa capace di rilasciare in una materia grigia, in un cervello grigio, abbastanza serotonina da far abbaiare un cavallo. Due album, uno omonimo nel 2011 e poi banalmente arriva due, fatto appunto come numero romano, nel 2015. Stiamo ascoltando uno dei suoi pezzi, Kindness and Talk, ma molto bella anche Easy Rhyme, come appunto dei Teenage Fan Club, più shoegaze. We'll be right back. E finisce anche questo pezzo molto carino degli Evils. Poi noi siamo presenzialisti, andiamo a vedere tutto subito dall'inizio. Per la scaletta della giornata di sabato seguiamo pedissequamente l'ordine nel cartellone. Non si sanno orari e palchi, tranne veramente si sa già chi suona nel palco Pitchfork, perché lo hanno detto. Ma appunto, partendo dal basso, partiamo quindi dal meno importante e poi per arrivare fino all'apice. E il secondo nome che vediamo nella lista è quello dei Wand. Si sa, un festival conta non solo sugli abbonamenti per tutti i giorni, ma ovviamente sugli ingressi quotidiani, cercando di concentrare un po' più band che possano piacere ad uno stesso pubblico. Ed è per questo che la giornata di sabato ci sembra molto connotata sul rock and roll, sul rock psichedelico, come questi Wand. Infatti, una psychedelic rock band da Los Angeles, California, nata nel 2013. E ci piacciono. Dopo il primo pezzo che abbiamo ascoltato era Grave Robber, siamo passati a un altro pezzo dello stesso album, perché noi non sappiamo mai scegliere. Questo invece è Sleepy Dog. Corey Hanson, Lee Landy, Ivan Barros, più il secondo chitarrista Robert Cody, che ha sostituito un altro chitarrista. Corey prima suonava con Michael Cronin, poi nel 2013 ha formato la sua band, hanno fatto un primo disco, Ganglion Reef, subito dopo un altro Golem, e dopo 6 mesi 1000 Days. Ed è da questo disco che noi stiamo ascoltando questi due pezzi molto belli. Poi una pausa nel 2016, perché sia Hanson che Barros, il batterista, facevano parte dei Muggers, ovvero la band che accompagnava Ty Segall nel tour appunto di supporto all'album Emotional Mugger. Chissà se suoneranno ancora con lui, visto che anche Ty Segall è in tour in questi mesi. Noi lo vedremo a Parade Estecora a fine agosto. E insomma, il Wand, bacchetta magica. Sicuramente molto molto psichedelici e psicotropi. E l'altra volta abbiamo detto di come quest'anno, a parte appunto le solite differenze relative al dare spazio a delle band portoghesi, ce ne siano altre rispetto al programma barcellonese, anche per i nomi che non ti aspetti, insomma quelli più grossi, da Richie Hawtin a Justice, e per noi, nel senso che non è molto famosa, ma insomma una bella differenza, e siamo contenti di potercela godere, Julian Baker, e suoneranno solo a Porto e non a Barcellona. Un'altra eccezione, ma sarà per insomma favorire le produzioni anche dell'etichetta del Primavera Sound di Barcellona, ovvero El Segell del Primavera, che solo a Porto suonerà questa giovane cantautrice che ci è piaciuta molto, Nuria Graham. I'm Nuria Graham, 21enne, 1996, Vic, Catalogna, ma metà irlandese, inizia a suonare a 16 anni, il suo esordio per il Segell del Primavera con un album, Bird Eyes, c'è scritto in alcuni posti 2014 o 2015, ma adesso l'ultima produzione è un EP, In the Cave, da cui stiamo ascoltando il primo pezzo, Collage, molto bello, e che contiene anche una cover di Toxic di Britney Spears, un pezzo che è gettonatissimo come cover ed è fatto molto bene da Nuria Graham. Cantautrice, chitarrista, anche aperto concerti di Barcellona e Madrid di Saint Vincent del 2014, quindi appunto dicevo forse per promozione interna nella penisola iberica, suonerà a Porto sabato pomeriggio, tardo pomeriggio, metà pomeriggio di sabato 10. Cambiamo ritmo decisamente con dei suoni a cui siamo molto affezionate, suoni un po' più sghembi degli anni 80. Si tratta di Operators, progetto parallelo di Dan Buechner, attivo dal 2000, British Columbia, Canada, poi trasferitosi a Montreal, dove all'inizio degli anni 2000 fonda i Wolf Parade. Solito noi non sappiamo decidere spesso tra un pezzo o l'altro, e adesso infatti ne ascolteremo due dallo stesso album, primo e vero proprio album di questo progetto, Operators, del 2016, Blue Wave. Stiamo ascoltando Bring Me the Head. Di dicevamo, Dan Buechner con i Wolf Parade fanno un primo EP nel 2003, raggiungono il successo, perlomeno arrivano dalle nostre parti nel 2005 con Apologies to the Queen Mary. E siamo passati al secondo pezzo che abbiamo scelto, Control. Prima e durante l'attività con i Wolf Parade ha avuto anche altri progetti, altre band, anche insieme a Britt Daniel quando gli Spoon erano in pausa. Al 2014 in realtà ha debuttato con questo nuovo progetto Operators con un EP che si chiamava EP One, e invece il primo album, l'abbiamo detto, del 2016, Blue Wave, prima della ripresa, pubblicato prima della ripresa delle attività con Wolf Parade. Suoni 80 spigolosi, l'abbiamo detto. Dopo Bring Me the Head ci abbiamo attaccato Control, che sono i pezzi che ci piacciono di più del disco. In realtà l'ordine all'interno del disco era inverso, ma ci veniva meglio così. Pezzi che si sarebbero potuti ballare a San Giulipero, ovviamente nella timeline giusta, e questi erano appunto gli Operators, progetti Dan Buechner. E passiamo ad un altro nome e stile, anche questo completamente diverso. Si tratta di Lady Ray, ovvero Nicole Ray, conosciuta perlomeno per gran parte della sua carriera solo col nome di Nicole. Nicole fu scoperta giovanissima da Missy Elliott e presente già nel disco di debutto di Missy Elliott, Supa Dupa Fly, del 97, quando Nicole aveva appena 18 anni. Poi ha fatto un album di debutto suo nel 98, però appunto fu criticato per la presenza eccessiva di Missy Elliott nella produzione, scrittura e presenza nei pezzi, io dico davvero pimp, butch. Poi ha avuto anche successo comunque nelle chart R&B e hip hop, poi ha fatto diversi singoli e collaborazione, un album abortito, e il secondo vero LP arriva solo nel 2013 come parte del duo Lady con un'altra cantante, Terry Walker. Just keep on smiling. Ora Nicole ha unito le sue varie identità e ha assunto il nome Lady Bray, ha fatto un disco. L'anno scorso Queen Alone, molto più soul, più retro, più appunto girls group gli anni 60. Stiamo ascoltando uno dei singoli, Smiling, anche se il 31 marzo ha pubblicato un nuovo singolo, Underneath My Feet, che ha come B-side un altro pezzo di Queen Alone, e noi abbiamo scelto questo, Smiling. E adesso arriviamo a uno dei nomi più attesi. Da me, da Olivia. How I'm insane. If I could learn to leave my troubles behind. It's starting to hurt, and I know you moved on. Questa voce così antica, in realtà Natalie Mehring, lo pseudonimo di Wise Blood, scritto W-E-Y-E-S come occhi, e invece è una scrittura alternativa, come spesso capita per le giovani band, di Wise Blood, Sangue Saggio, ovvero il primo romanzo di Flannery O'Connor da cui ha preso il nome Natalie Mehring, classe 1988. Qui io dico che diventa un po' Sharonetta. Nata sull'oceano a Santa Monica, infatti l'oceano è spesso presente nei suoi pazzi, assurdi, surreali video che vi invito ad andare a guardare. Ne ha fatti molti anche per diversi pezzi dello stesso disco, l'ultimo. E poi è cresciuta in Pennsylvania, ho genitori musicisti, però ultra cristiani, anche fratello musicista, a 15 anni si è ribellata a questo environment un po' troppo religioso e inizia a scrivere canzoni con questo pseudonimo. Ne abbiamo già sentita con la bellissima Do You Need My Love, come appunto best canzoni del 2016, ha fatto 3 album, l'ultimo è del 2016, Front Row Seat to Earth, da cui appunto stiamo ascoltando la bellissima Seven Words. In realtà ha fatto un'altra pubblicazione, un EP con Ariel Pink, cioè i folli si attraggono. Come dicevo, i video sono assolutamente surreali, però c'è lei che rimane lì impassibile col suo faccino così minuto e ci piace tantissimo. Sarà forse imprevedibile, chissà cosa farà dal vivo Wise Blood, Natalie Mehring, noi siamo tutte per lei. E passiamo anche questo in modo un po' brusco al punk rock degli Against Me. E se possibile vorrò vedere anche loro, progetto nato nel 97 in Florida da parte di Tom Gable, che dal 2012 ha transitato, è una transessuale, ha assunto il nome di Laura Jane Grace, mi pare con l'approvazione insomma di tutta la scena musicale senza nessun problema. 7 album, 2 matrimoni e questa disforia di genere che andava e veniva fino a quando appunto la decisione di fare la transizione e vivere finalmente con il genere che si percepisce, a cui si percepisce di appartenere, è stata definitiva nel 2012. Un primo album su questo tema nel 2014, Transgender Dysphoria Blues, e poi nel 2016 Shapeshift With Me, anche un libro di memorie sulla sua esperienza, Tranny, Confessions of Punk Rock's Most Infamous Anarchist Sellout. E abbiamo scelto però un pezzo più punk, insomma uno dei 2 pezzi più punk del disco, perché in realtà è più un punk rock, anche a volte con accenti country. E invece c'è un'altra band che invece era più punk hardcore, sempre guidata da una cantante transessuale, erano i Gloss, Girls Living Outside Society's Shit. E questo pezzo, che è duopo dei pezzi punk, è molto breve, si chiamava Provision L3 e era un nome e una marca, è un nome e una marca di quei dispositivi di body scanning, quindi simboli del controllo poliziesco, di una cultura del sospetto, di una violenza in nome della sicurezza nazionale, dove appunto i punk band contro cui si rivolta. Infatti lei canta What Can You See Inside of Me? Siamo passati a Mitski, tutto è stato detto di lei nella nostra puntata del 25 gennaio su Puberty 2 e sempre dallo stesso disco. Stiamo riascoltando Fireworks perché ci avevo parlato troppo sopra in trasmissione. L'abbiamo già vista al Covo il 24 febbraio, ma la rivedremo con piacere. Se ci fosse una spiacevole sovrapposizione, beh, insomma, la sacrificheremo un po' con la coscienza a posto, visto che l'abbiamo già vista. A questo punto della scaletta ci sarebbe appunto, in ordine, partendo dal basso, gli Shellac, che ho scoperto, anzi, Shellac, che significa gomma lacca, smalto, insomma, una sostanza naturale a cui si producono un sacco di cose. progetto di Steve Albini, che sono ospiti fissi ogni santo anno, ma noi appunto per scelta non li suoniamo più, ma facciamo un salto indietro. Come abbiamo anticipato, a Primavera di Barcellona c'è il Primavera Pro, questo showcase per addetti ai lavori dell'industria musicale, che sceglie delle band emergenti per sottoporre all'attenzione di appunto addetti ai lavori, musicisti, giornalisti, eccetera, e si svolgerà nei giorni dal 31 maggio al 4 giugno. E delle altre due band selezionate, adesso ci ascoltiamo gli Shijo X. Ex abruzzesi con sede a Bologna, nati come duo Davide Verticelli e Laura Sinigaglia, e ringrazio per i materiali Leonardo Cianfanelli. Dopo un album del 2011, dal titolo One Minute Before, sono diventato un quartetto nel 2012, secondo album If a Night, terzo album di imminente uscita, sempre suoni trip hop di matrice bristoliana ma più personali. E ora, cioè all'inizio di quest'anno, è uscito in anteprima questo singolo che stiamo ascoltando, Spiral, sempre per la Bombanella Dischi, la loro casa editrice musicale, che contiene anche un remix di Beatrice Antolini. Insomma, sarà stata sicuramente attirata dal pianoforte contenuto in questo pezzo. Abbiamo ascoltato Spiral, Alt Version Video Edit in realtà, e l'altro nome presente al Primavera Pro è quello di Wrong On You, ovvero Marco Zitelli, Roma 1990, che suonerà prima del Primavera Pro lo Spring Attitude, per cui lo sentiremo ancora in trasmissione e lo vedremo, visto che non saremo a Barcellona. È stile folktronica, direi, fine 2016, primo EP, The Mountain Man, da cui stiamo ascoltando il pezzo omonimo. You know. Questo pezzo è abbastanza rock, ma vi assicuro che il resto dell'EP è più folk. Ringrazio ancora Gianluigi Riccardo per questi materiali. Man, you are my mountain, I will be your tree, and together we'll be the mountain. anche per Wrong on You. Si prospetta un l'album di esordio sempre quest'anno 2017 prodotto da Michele Canova, definito il Remida della musica italiana, super produttore dei più grossi nomi pop italiani: Amoroso, Mengoni, Carboni, Elisa, Ramazzotti, Giovanotti, Giorgio, Tiziano Ferro, Morandi, Ferreri, Celentano, Patti Pravo, Giovanotti, Samuel Antonacci, Michelin, Renga. Ma lo ascolteremo ancora nella puntata che arriverà sullo Spring Attitude Festival. Adesso siamo passati ad un ritorno, anche se lo stesso sito del NOS Primavera Sound non la registra questa cosa. È la seconda volta che partecipano al festival e sono i Bicep, duo di Belfast, Andy Ferguson e Matt McBrier, che io appunto scoprì proprio in occasione della loro partecipazione all'Optimus barra NOS 2014, perché il festival cambiò nome in corsa. Questo pezzo su cui ho operato, classico taglia e cuci, si chiama Just. È un pezzo che mi piace molto e che ho usato qualche volta come intro nei miei DJ set. Dicevamo i Bicep come bicipite. Hanno iniziato come blogger, con un blog che ovviamente con meno costanza, insomma, ancora seguono, Feel My Bicep, nel 2008, dove postavano più di 100 pezzi alla settimana e che li scovavano le produzioni più oscure, sconosciute o dimenticate, e poi sceglievano alcuni pezzi per poi dal 2010 suonarli come DJ, stesso anno in cui hanno iniziato ad una produzione di pezzi loro, molti singoli ed EP, come succede sempre per chi fa producer di musica elettronica, club music, collaborazioni anche con Simian Mobile Disco, e appunto ci ascoltiamo, e ce l'ascoltiamo bene, questa Just, tratta da Just EP del 2015, e aspettiamo un album. Sfuma ovviamente per motivi di tempo questa molto bella Just dei Bicep, e appunto a riprova di come la programmazione del sabato voglia attirare pubblico amante dello psychedelic rock ci pensa appunto la presenza dei Black Angels. Black Angels di Austin, Texas, formatisi nel 2004, un nome preso dal pezzo di Velvet Underground, Black Angels That Song, il penultimo del disco Velvet Underground e Nico, e anche il loro logo raffigura Nico, primo album nel 2006, ne sono seguiti poi altri quattro fino al nuovissimo, proprio uscito una settimana fa, il 21 aprile, That Song, così il titolo di Velvet è completo, Black Angels That Song. Stephanie Bailey alla batteria, una bionda con i capelli, ho visto delle foto che volano in tutte le direzioni, mentre suonano tutta questa energia, Christian Bland, chitarra, voce basso, Alex Maas, voce basso, chitarra, Kyle Hunt, tastiere e percussioni, Jake Garcia, chitarra, basso e voce, anche loro passeranno a Bologna tra Barcellona e Porto, anche loro l'8 giugno, anche loro concerto organizzato da Locomotive, che quindi si sdoppierà, mentre i Whitney sono al cavaticcio, i Black Angels saranno dentro a Locomotive nella stessa sera e stiamo ascoltando la molto bella I'd Kill For Her. E restiamo con la potenza, questo pezzo che sembra Springsteen a 78 giri, si tratta dei Japan Droids. Die! Japan Droids, duo di Vancouver, power rock tesissimo, a me stanno simpaticissimi, vabbè. Brian King, voce chitarra, e David Prowse, batteria e voce, chissà per quanto tempo, io penso sempre a lui, riuscirà a tenere questi ritmi, una unione di classic rock più punk. Hanno sempre fatto tour mondiali lunghissimi, fino al loro esordio nel 2009, Post Nothing, e poi nel 2012 Celebration Rock, 228 date in tutto il mondo, tranne l'Africa ovviamente. Noi l'abbiamo visti sempre a novembre 2012 al Pitchfork Paris Festival, poi una pausa per quasi tre anni. Nel gennaio 2017 è stato pubblicato il nuovo album Near to the Wild Heart of Life, da cui stiamo ascoltando l'omonimo tormentone che abbiamo potuto sentire da novembre 2016 su Vodafone FM, appunto Near to the Wild Heart of Life. Siccome la canzone non è che cambi molto, insomma, strofa ritornello dei Japan Droids, noi cominciamo a parlare della prossima artista. Una, secondo me, delle punte di diamante, anch'io non la conoscevo, poi mi sono dovuta veramente convincere e ricredere quando l'ho vista, sebbene solo per pochi pezzi, perché sono andata a vedere i Whitney, che hanno iniziato molto in ritardo, al Coliseo di Lisboa. Si tratta di Elsa Soares, essendo appunto la pronuncia brasiliana. Ha pubblicato l'ultimo album A Mulher do Fim do Mundo nel 2015, fine 2015, anche se compare sui best of del 2016 sia in quella di Pitchfork al 32esimo posto, quindi insomma una posizione piuttosto alta, che è tra i 50 migliori dischi del 2016, ma anche tra i migliori 10 del New York Times. Data di nascita? 23 giugno 1937, in una favela di Rio de Janeiro. Agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Una vita da romanzo, fatta sposare a 12 anni, aveva questo bambino neonato a cui doveva dar da mangiare, perciò partecipò ad un concorso canoro, e poi appunto una vita incredibile, 54 dischi dal 60, samba, bossa nova, musica popolare brasileira, MPB. Questo disco, tra l'altro, per questa categoria ha anche vinto il Grammy Latino del 2016. Samba, rock, rap e elettronica in questo ultimo disco, che parla di violenza domestica, transessualità e negritudine e emarginazione urbana. Quem tem contra com me, quem tem cadastro non sobra. Meu amor, meu amor. E anche insomma fonte di pettegolezzi per la sua relazione con il calciatore Garrincha, che era appena divorziato. Insomma, la gente la odiava perché veniva considerata una rovina famiglia, e dopo appunto anche perché gli amici la odiavano, perché lei andava nei bar a dire ai baristi di non dare da bere a suo marito che era un alcolizzato, per cui io ho capito che Garrincha, viene tanto lodato, era un uomo e merda. Hanno avuto anche un figlio, anche lì tragedia, morto da piccolo, ma lei continua a fare musica con questa volontà sperimentatrice incredibile. Vejo o próprio fogo, não há força pra deter. Me derreto tonta, toda a pele vai arder. O meu peito em chamas, solta a fera pra correr. Nella compilation sul Mesh Fest avevamo messo Maria Davila Matilde, appunto il pezzo sulla violenza domestica, infatti anche al concerto ha fatto un appello alla ribellione, alla violenza, un appello alla denuncia. Qui avevamo unito la title track a Mulher do Fim do Mundo, invece adesso stiamo ascoltando il secondo singolo, Luz Vermelha, seguita da questa Pra Fuder, per scopare. Cravadas em transe, latejo, roupas jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ah, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Incredibile. Immagino che non sarà tra i nomi più interessanti per gli hipster che vanno ai festival, soprattutto al primavera, ma una leggenda da vedere con i propri occhi, anche solo per un minuto. Anche lo stesso Pitchfork riconosce appunto questi meriti, e anche nella presentazione del festival viene sottolineata questa capacità innovativa instancabile di Elsa Suarez. Siamo passati sempre, per rimanere nell'ambito rock and roll, ai Growlers, gruppo nato a Dana Point, California, che ora è di base a Costa Mesa, cioè si sono spostati una quarantina di chilometri più a nord, vicino a Los Angeles. Questo pezzo mi piace molto, forse perché sempre grazie a Vodafone FM me l'ha piantato nel cervello. Gruppo nato nel 2006, Brooks Nils, Matt Taylor e Kyle Straka, più 9 ex membri, primo album nel 2009, più altri 5 fino a City Club, uscito nell'autunno del 2016, da cui appunto stiamo ascoltando I'll Be Around, per uno stile che combina country, surf, pop, rock e beat, dando luogo ad uno stile tutto loro, il beach goth, Un album è stato anche preceduto dal pezzo omonimo City Club, prodotto da Julian Casablancas, per la cui stessa etichetta è uscito il disco, la Cult Records. Crawlers organizzano dal 2012 il Beach Goth Festival a Santa Ana. Loro stessi sono sempre headliner delle due serate principali. Nell'edizione 2016 c'erano tipo Bon Iver, le TLC riformate, James Blake, Violent Pumps, Future Islands, The Faint. Ormai mi sono affezionata a questa al Be Around, dai suoni un po' più anglosassoni che americani, direi. E finisce e passiamo alla parte notturna, già con i Bicep, è stata anticipata, della programmazione del festival, insomma non sarà magari proprio in piena notte, però si tratta di Taiko, progetto di Scott Hansen, Sacramento 1977, musica ambient, elettronica, organica, cosmica. Questo già sappiamo, si esibirà il Pitchfork Stage, perché appunto abbiamo detto che Pitchfork ha detto quali sono i nomi scelti da appunto la testata. Venerdì Symbols Hit Guitar, Hamilton Lighthouser, Julian Baker, Mano Le Tough, Nick Lane, Richie Houghton, e invece il sabato Against Me, Bicep, Mitski, Operators, Tycho e Wise Blood. Di base ora San Francisco, Scott è anche conosciuto come ISO 50 per i suoi lavori di grafica e fotografia. Immagino appunto tutte le sue copertine siano appunto a sua cura personale. Viene accompagnato alla live band di Quattro Elementi, io l'ho visto all'Estragon il 20 ottobre 2014 grazie a Marco. Ha fatto un primo album, Sunrise Projector, nel 2004, poi chiamato Pastis Prologue nella re-release del 2006, poi altri tre album, sempre per la Ghostly International, Dive, Awake e l'ultimo Epoch. Sia le canzoni che i pezzi sono sempre di una sola parola, molto molto evocative. E da Epoch stiamo ascoltando questo mix di tre pezzi, Slack, Epoch e Division. tra l'altro di Awake, il penultimo disco, è anche uscita un'edizione di remix che contiene anche un remix di Baio, che in effetti per i suoi suoni lo ricorda un po', anche se è meno cosmico di quanto sia Taiko. Come dicevo, sempre questi nomi evocativi, che l'ultimo album c'è Glider, Horizon, Receiver, Source, Continuum, Field. Per un album che è stato anche candidato come Best Dance Electronic Music Record agli ultimi Grammy. Non ha vinto, ma è stato candidato tra i 5 candidati. E adesso cambiamo decisamente suoni. Anche loro vengono da Sacramento, sono i Death Grips. Experimental hip hop, io lo chiamerei rap hardcore, dal 2010. Stephen Burnett, detto MC Ride, più batterista Zach Hill e l'ingegnere di registrazione recording engineer Andy Morin. Il successo ottenuto in rete poi ha fatti firmare un contratto con la Epic nel 2012. Noi l'abbiamo vista Pitchfork Paris 2012, hanno fatto un album, The Money Store, sempre lo stesso anno. Loro hanno pubblicato Contro la Volontà, all'insaputa della band, il loro album successivo No Love Deep Web, web su siti collegati a SoundCloud, a BitTorrent, quindi un file sharing totale, perché l'etichetta invece voleva aspettare l'anno nuovo per farlo uscire. Un mese dopo sono stati mollati dalla Epic, poi c'è stato un incidente a Lollapalooza dove non si sono presentati, la gente ha distrutto la batteria, poi in realtà insomma era tutta una cosa organizzata. Poi hanno firmato con la World Music nel 2014. Poi di colpo, 2 luglio 14, hanno annunciato lo scioglimento postando su Facebook la foto di un tovagliolo di carta con su scritto il messaggio d'addio e molti altri casini. Ovviamente non hanno mai smesso di buttare fuori tanta musica fino a maggio 2016, quando hanno pubblicato Bottomless Pit, da cui stiamo ascoltando Ring a Bell. È vero, sulla roba che non mi piace molto, insomma, ci parlo sopra. E vabbè, insomma, si sa che Mighty FM è sempre autoreferenziale e che ovviamente sceglie i pezzi o i meno o peggio o quelli che gli piacciono di più. E abbiamo scoperto, già lo conoscevamo da anni, ma abbiamo scoperto davvero, abbiamo ascoltato il lavoro di Sanfa Sisai, novembre 1988, Morden, il capolinea sud della Northern Line. They cuff their heads. I can't see their faces. I can't see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. Sanfa ha iniziato a suonare sul pianoforte di casa. Aveva un fratello maggiore che si era fatto come uno studio artigianale dentro casa e inizia ad avvicinarsi alla produzione musicale da adolescente. Attraverso un producer, Quest, ha conosciuto Mika Levy, Ghost Poet e tutti quelli della Young Turks, per cui ha sempre lavorato, diciamo. Nel 2009 primo remix di Basic Space degli XX, che ho sempre amato suonare, e poi collaborazioni soprattutto con Subtract. I pezzi più belli di Subtract sono cantati da lui, Hold On, Temporary View, ma anche diversi pezzi con Jesse Ware in Devotion, e poi anche pezzi con Drake, Sam Pablo, con Kanye West. Ha fatto un'altra EP nel 2013 e nel 2016 ha cominciato a postare dei pezzi in anticipazione del primo vero album, tra cui questa Blood On Me. My bed. contenuta anche nell'elenco delle migliori 100 canzoni di Pitchfork del 2016, lo volevamo mettere in scaletta, poi invece non ce l'abbiamo messa. E il 3 febbraio 17 esce finalmente l'album, vero e proprio Process. Al primo ascolto mi è piaciuto molto anche il pezzo che ascolteremo dopo Blood on Me, che infatti è il secondo singolo video pubblicato a gennaio, che è No One Knows Me Like the Piano in My Mother's Home, perché Process appunto è un disco sul lutto, sulla perdita di sua madre e anche sulla scoperta di sé. È un disco, ho letto, che è stato molto molto quotato dalla critica specializzata, 86 su 100, infatti è un disco molto molto bello. Piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Nessuno mi conosce come il pianoforte a casa di mia madre. Struggente. What else? Per un disco, Process, è stato coprodotto da Rod Hyde McDonald, un engineer della XR Recordings che abbiamo già sentito in passato, perché ha prodotto Silence Yourself delle Savages e soprattutto XX, l'album di debutto degli XX, e I See You, coprodotto ultimamente, ma anche Daughter, King Cruel, Adele, How to Dress Well. Cambiamo decisamente suoni per una presenza veramente storica. Prima reunion per partecipare ai Primavera Sound Festival, si tratta dei Make Up, si trova scritto The Make Up, Make Up con il trattino, invece no, io li chiamo Make Up perché è così che c'è scritto sulla copertina dei loro dischi, una post-punk band nata a Washington DC nel 95 col frontman Ian Svenonius. Garage rock, surf, soul è una teologia della liberazione assolutamente personale, creando lo stile del gospel yeah yeah. Concerti infatti come messe gospel, interazione col pubblico che partecipa attivamente come quinto membro del gruppo che canta, risponde, e una filosofia politica permeata da comunismo e anticapitalismo. La band sempre condivise uguali per appunto distruggere l'individualismo, per creare unificazione, uniformi. C'erano 4 album dal 96 al 99 più 2 live album nel 2000, scioglimento a causa dei tanti gruppi che li copiavano sia nell'aspetto che nel suono, ma di stampo controrivoluzionario. Successivamente Svenonius disse: i Make Up sono durati 5 anni, un piano quinquennale come Stalin, era diventato ridondante, venivamo copiati. I'm Insomma, marxismo e socialismo contro il paradigma capitalista, borghese e macista del rock and roll, ispirate al situazionismo degli anni 50-60 dall'ultima LP del 99, chissà se ce ne saranno altri. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando Call Me Mommy, l'LP si chiamava Save Yourself, salvati. E siamo arrivati ai metronomi sulla band di Joe Mount. Abbiamo detto proprio tutto in Mighty FM 5x15. Nel marzo 2014, quando era appena uscito Love Letters, perché poi l'abbiamo visti live a Milano, da allora Joe e i suoi compari, il bassista Olubenga, Adele Khan, la batterista Anna Pryor e il polistrumentista Oscar Cash, hanno pubblicato nel 2016 Summer 08. Pur corredandosi di grandi musicisti che dal vivo veramente rendono tantissimo, si sa che Metronomy è il brainchild, il prodotto della mente di Joseph Mount. Una band che noi amiamo molto, soprattutto grazie al meraviglioso The English Riviera del 2011, che contiene il pezzo The Bay, che è un classico per sempre proprio. We smoke taxi in the backseat, it's where you'll find me. You keep your friends, I'll keep my friends. Have a party and don't waste it. Make some money, make more money with your new friends. Throw a party. You keep your friends, I'll keep my friends. Have a party. Un amore che poi è stato confermato da Love Letters, invece Summer 08, ancora e di più frutto del solo lavoro di Joe Mount, è sempre retro, però rivolto ad un'epoca diversa, quella dei primi anni 80, della dance, della break dance, dei scratching dei DJ e dal suono della drum machine Roland 808. Contiene anche un duetto con Robin, che non è uno dei nostri pezzi preferiti. Abbiamo scelto invece il primo singolo riempipista Old School, appunto, in attesa di vederli per la terza volta. E la prima volta è stato alla live di Lisbona, dove loro erano assolutamente stupefatti del fatto che alle 3:30 di notte ci fosse così tanta gente entusiasta. Hanno suonato dopo i Kills e dissero che, appunto, quando avevano visto che gli avevano dato lo slot a quell'ora, dicevano ma non ci sarà nessuno, e invece no, fu un gran trionfo. E insieme a Old School poi ci abbiamo attaccato un altro singolo, Night Owl. We'll be right back. It's recalling our showers in the morning. And what you said that day, I'll take it to the grave. But once I'm in the grave, you won't care anyway. E siamo passati a Night Owl, un pezzo più classico rispetto allo stile dei Metronomi. Insomma, solo un accenno per non volerci far mancare proprio niente. Concludiamo in bellezza con uno dei nomi più attesi, ovvero Richard D. James, Aphex Twin, personaggio elusivo capace di assentarsi per anni dalla scena musicale per poi pubblicare decine di pezzi in vari album, EP, eccetera. Classe 1971, siamo coetanei. Basta, queste sono le cose che ci accomunano, finiscono qui. Una leggenda appunto per il lavoro seminale e anche idiosincratico su IDM e acid techno degli anni 90, poi la popolarità mainstream raggiunta nel 97 con l'EP Come to Daddy e soprattutto con Window Licker del 99, grazie anche al video surreale e molto molto inquietante di Chris Cunningham, che mi piace sempre dirlo, è il marito di Jenny Lee del Warpaint. Dopo Drux del 2001, silenzio per 13 anni fino a Syro del 2014, dopo nel 2015 Computer Control Acoustic Instruments Part 2, Orphan DJ Seeker 2006-2008 con sotto il nome di uno dei suoi tanti alter ego AFX, ma nel 2016 ha pubblicato un altro EP, il Cheetah EP. Abbiamo parlato molto del Cheetah EP perché abbiamo ascoltato un pezzo, il Cheetah T2 LD Spectrum, che fa parte di questo EP, l'abbiamo ascoltato nella puntata Best Of del 2016. E cos'è Cheetah? Cheetah è un synth prodotto dalla Cheetah Marketing, Cheetah è in particolare il Cheetah modello MS-800, prodotto dalla ditta anglosassone tra gli anni 80 e gli anni 90, definito the most difficult instrument to program on the planet, quindi una sfida perfetta per un pazzo come James. quell'occasione avevamo anche parlato di un altro pezzo, che è quello che finalmente stiamo ascoltando, ovvero Cyclone 3 col Kotznaya Mix. Si distingue sempre per i titoli molto complicati, e ne abbiamo parlato a causa del suo video fatto da un dodicenne dublinese, Ryan Wire, e già sarebbe una notizia di per sé, ma in più questo ragazzino, che è uno youtuber, è un grande fan di FX Twin, è autistico e ipovedente. Il video è assolutamente complementare alla musica, assolutamente da vedere, e ci stiamo ascoltando quindi questo pezzo nella versione MAU Edit, tagliuzzato qua e là. Con FX Twin, che infatti nel cartellone risulta come il primo nome dell'elenco degli artisti che si esibiranno sabato 10 giugno al NOS, Primavera Sound Festival di Porto, che questo special si conclude. Vi rimando anche appunto alla puntata di un paio di settimane fa sugli artisti della prima metà abbondante di questo festival. Ricordiamo chi si esibisce a Porto: nel 99% dei casi si esibisce anche a Barcellona, delle eccezioni anche importanti ne abbiamo parlato, e buon ascolto sempre con Might FM Radio Kairos da Claudia Mighty Mau. Ci vediamo a Porto.